in 1999, the man killed a lion between punishment and crime. On the planet Earth, there was no more fun, no sex, no drugs, no rock and roll. All music turned to a fashion show. White man had the British pop, and black man had soul. No, not a drop of blood, cause we the all killed the rock and roll. And God said, oh my God, what's happened to the human being? What's happened to my lovely creature? They all became a cold machine. No more love, no more power. Machine without gasoline. Quindi venerdì 29 luglio del 2012, per tutto quello che riguarda Genova vi possiamo rimandare a 10%.it e vi ricordiamo che martedì 3 luglio alle 18.30 a Piazza dell'Immacolata a San Lorenzo ci sarà il convegno Costruire il nemico, criminalizzazione degli indesiderati da Genova dal 2001 a oggi. Dopodiché ci ascolteremo gli spot, ma cominciamo sempre come sottofondo musicale terreno Emir Kusturica, perché insomma è vero che il classico non muore mai e poi che non è classico, ma cerchiamo di capire di che cosa parleremo. Parleremo di alcune cose realmente riprovevoli, come l'avanzata delle destre, delle estreme destre in delle estreme destre in quella che prima si chiamava Europa dell'Est. Nessuno si indigna, nessuno dice di interrompere i rapporti diplomatici con l'Ungheria o con la Slovacchia per le loro politiche razziste e discriminatorie e fasciste nei confronti dei Rom e delle Rom. Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando per esempio di quello che è accaduto in Ungheria. Un deputato fa il test per dimostrare la purezza della razza. Subito dopo si dà notizia dalle pagine del Corriere della Sera che non esiste alcun fondamento scientifico alle teorie che affermano la superiorità genetica di un popolo, perché in realtà non esiste la purezza genetica, ma in Ungheria un deputato dell'estrema destra, quindi nazifascista, quando era ancora candidato per le elezioni del 2010, si è sottoposto ad analisi cliniche per dimostrare di essere geneticamente puro. E che cosa significa essere geneticamente puro? Significa per lui, per il suo cervello, per la sua razionalità, significa provare di non essere né Rom né ebreo. Lo scandalo è stato universalmente condannato nel paese e nella comunità scientifica internazionale. È scoppiato giorni fa quando su vari siti internet è stato pubblicato il certificato stilato da un laboratorio privato, il Nagy Gen, in cui è stato oscurato il nome del politico che ha richiesto l'atto. Secondo la stampa locale si tratterebbe comunque di un parlamentare dell'ultradestra di Jobbik, il partito che nelle ultime elezioni ha ottenuto il 17% dei voti, partito che come statuto e come pratica è molto simile a quella della Lega Nord in Italia. Le istituzioni politiche e scientifiche ungheresi hanno immediatamente condannato quest'atto. Il Consiglio di ricerca per la ricerca medica insorto ha definito professionalmente sbagliato, eticamente inaccettabile e illegale il documento, avviando le procedure per un'inchiesta. Il direttore di istituto di genetica dell'Accademia Ungherese delle Scienze, István Rasko, ha sottolineato l'inconsistenza del documento. È impossibile dedurre le origini etniche delle variazioni genetiche presenti nel genoma. Lo scienziato si è inoltre detto molto preoccupato perché è una vicenda dannosa anche per gli studi genetici. Chissà quando questa gente scoprirà di avere dei geni simili a Lucy, una delle prime donne il cui scheletro è stato scoperto in quel dell'Etiopia. probabilmente cercheranno di togliersi, diciamo, di togliersi di torno, perché sarà per loro una cosa, una consapevolezza terribile. Ma comunque anche la società di genetica umana si associa alle condanne e ribadisce l'assenza di basi scientifiche, però la rivista Nature dedica una pagina all'argomento e stigmatizza l'accaduto. Lydia Gall, ricercatrice di Human Rights Watch per i Balcani e per l'Europa, si dice allarmata. Nella situazione di grave tensione nazionalistica che vive l'Ungheria, dove la violenza razziale contro i Rom è in crescita, è preoccupante che un deputato sia ricorso a un attestato di purezza razziale per confermare la sua purezza ungherese ai potenziali elettori. Azioni del genere aumenteranno soltanto l'odio razziale verso le minoranze, in particolare ebrei e rom, così ci dice Lydia Gall di Human Rights Watch. Ma il deputato che si è sottoposto a un test genetico ha voluto analizzati 18 marcatori del suo DNA. Da un punto di vista biologico non esistono differenze nel genoma umano che vivono sulla Terra che permettono di caratterizzare etnie specifiche, ci spiega insomma in tutte le salse il Corriere della Sera. Ma il test di purezza etnica viene pubblicato lo stesso comunque su un sito internet di estrema destra, e il laboratorio che ha effettuato l'esame, dopo le numerose critiche, si difende respingendo ogni forma di discriminazione, non avendo il diritto in questo senso di giudicare le motivazioni per cui un individuo chiede di fare il test. E così questo accade in Ungheria, questo accade appunto da parte di un deputato di un parlamento, di uno Stato che dovrebbe fare parte della Unione Democratica Europea, e diciamo viene visto più come un fatto di folklore che non come una revanche e una pratica assolutamente nazista, per dimostrare ancora una volta l'esistenza di razze. Ammesso che esistano, le razze non esistono, però purtroppo continua ad esistere il razzismo, e quindi gruppi di persone superiori a altri gruppi di persone. E questa cosa ha avuto un grande battage, diciamo, in alcuni giornali. Chiaramente non è stata fatta chiaramente una prima pagina, si parla di scandali, ma diciamo che il test per la purezza razziale evidentemente è possibile richiederlo, ed evidentemente poi ci sono vari aspetti di questo di questa notizia, perché un altro media che si chiama Fanpage dice: scandalo in Ungheria, dove un parlamentare di un partito dell'estrema destra si sottopone a un esame per provare di non essere rom o un ebreo, e i risultati del test gli danno ragione. Così diciamo si camuffa una falsità, così si camuffa appunto la possibilità, e si dice che in fondo il test comunque qualcosa di vero l'ha detta, e così si ricomincia a parlare di razze superiori, di razze inferiori, quando appunto i partiti di estrema destra continuano a proliferare e nessuno si scandalizza, e non vengono giudicate cose che non vanno d'accordo con la sobrietà. Ma andiamo avanti e parliamo un po' d'altro. head so. No, not a drop of blood, 'cause we the all killed the rock and roll. And God said, oh my God, what happened to the human being? Wake up, crowd, wake up from your boring dream. There is lightning, there is thunder, what's up with you, I wonder? Lift your shoulders, stamp your feet, produce the extra drumming. I'm gonna hit you, hit you, hit you. Let it be a, let it be a, let it be a, let it be sound. Let the beer music rewind, 'cause it's unser, unser, unser, unser, unser, unser, unser, unser time. It's unser, unser, unser, unser time. It's unser, unser, unser, unser, unser, unser, unser, unser time. It's unser, unser, unser, unser. You with my rhythm stick. Ed allora, mentre il governo Monti nella persona della ministra Cancellieri ha concluso degli accordi a Tripoli con il ministro dell'interno libico e lei stessa che è il ministro dell'interno italiano, e anche questo non ha scandalizzato per niente né la stampa italiana né il governo, si ripropongono praticamente gli stessi accordi, la stessa intesa per il contrasto all'immigrazione clandestina, uno scarno comunicato stampa in cui ci dicono che l'accordo prevede collaborazione contro le organizzazioni criminali che gestiscono il traffico dei migranti, nella formazione per le forze di polizia, per il controllo delle coste, il rafforzamento della sorveglianza delle frontiere libiche per favorire il rientro volontario dei migranti nei paesi di origine, paesi squassati da rivolgimenti militari, avanzate di tu per tuareg, è una carestia gravissima che addirittura sta denunciando l'UNICEF. In prospettiva si tratta di intese e non di un nuovo accordo, e si tratta, in pratica, ci dice chi è più informato di noi, si tratta del mantenimento dei rapporti derivanti dagli accordi stipulati da Berlusconi del 2008 sulla base dei due protocolli tecnici già conclusi da Amato e dal governo Prodi nel dicembre del 2007. Accordi che non prevedevano espressamente respingimenti collettivi poi effettuati a partire dal 6 maggio 2009 delle autorità italiane, ma che già stabilivano quel pattugliamento congiunto verso il quale sembra ancora orientato il governo Monti, una pratica che, come dimostra l'esperienza degli scorsi anni, può facilmente tradursi in rimpatri sommari. Questo insomma è la maniera di parlare del Corriere Immigrazione.it, con la collaborazione delle imbarcazioni libiche sulle quali potrebbero essere ancora imbarcati agenti italiani con funzione di istruttori, accordi che faranno diventare ancora di più il Mediterraneo un'immensa tomba, appunto, a mare aperto. Quindi gli accordi erano stati stipulati la prima volta con, no, la prima volta no, erano stati, sono stati stipulati con il governo libico, di quello che poi tutti hanno chiamato dittatore quando bisognava invadere la Libia, che è sempre stato definito un criminale dalle organizzazioni pacifiste e da chi crede nell'autodeterminazione dei popoli, però diciamo che il giudizio su Gheddafi cambia a secondo che si siano palesemente cose fatte da lui oppure sono le stesse cose, le stesse leggi promulgate durante il periodo appunto del suo governo. Però poi, una volta che lui è stato ammazzato, rimangono le leggi, rimangono gli accordi internazionali uguali e nessuno si scandalizza più. E quindi, di passaggio logico in passaggio logico, c'è stata un'altra cosa che durante la presidenza sempre di Prodi, però stavolta del Consiglio d'Europa, è andata insomma in sordina, ma non proprio in sordina. Quando Prodi era presidente di turno del Consiglio d'Europa, si rifiutò di ricevere i cosiddetti cancellati. Cosa sono i cancellati? I cancellati sono quelli che nel 92, con una decisione segreta da parte dell'amministrazione slovena, vennero cancellati incollati anagraficamente nei loro dai registri dei paesi dei paesi dove erano appunto registrati. E decine di migliaia di cittadini che nel nuovo stato sloveno indipendente su base etnica erano soltanto jugoslavi. Quindi ci sono state delle persone che improvvisamente si sono trovate a non esistere più. L'amministrazione slovena sapeva perfettamente che queste persone erano difficili da raggiungere, in quanto molte di loro erano emigrate o non si trovavano in quel momento, nel momento in cui venne presa la decisione, che fu istantanea, nel loro paese d'origine, e al loro ritorno si ritrovarono appunto cancellati e inesistenti. Si sono organizzati, ci sono state tantissime iniziative fatte da loro, delle iniziative delle quali noi come Radio Onda Rossa abbiamo parlato, presentando anche un video una volta che si chiamava Drugistani Reche, cioè dall'altra parte del fiume, che raccontava appunto quello che era accaduto a queste decine di migliaia di persone. Ma è notizia di oggi che la Corte di Strasburgo ha condannato la Slovenia per aver violato i diritti umani con la decisione segreta di cancellare anagraficamente l'esistenza di decine di migliaia di cittadini. Martedì scorso, appunto, ce lo racconta Roberto Pignoni, che è un attivista per i diritti civili e per i diritti dei Rom, che molte volte abbiamo sentito anche a proposito di questa, dei microfoni di questa radio, ma che abbiamo sentito anche per quanto riguarda le vicende del campo per nomadi di Via dei Gordiani. Martedì scorso la Corte Europea dei Diritti Umani di Strasburgo emette una sentenza davvero storica. Dopo il ricorso presentato 6 anni prima da un gruppo di cancellati, la Corte ritiene lo Stato sloveno colpevole di alcune vilissime, gravissime violazioni dei diritti umani riferite all'articolo 8, diritto al rispetto della vita privata e familiare, all'articolo 13, il diritto a un rimedio legale effettivo, e l'articolo 14, divieto di discriminazione. Insomma, questi tre articoli potrebbero essere condannate svariate amministrazioni anche in Italia, pur rigettando inspiegabilmente alcune posizioni particolari. La Corte accoglie in pieno le argomentazioni dei ricorrenti, che è un campione assai ridotto ma significativo, delle decine di migliaia di cittadini che furono illegalmente privati della residenza permanente il 26 febbraio del 92. Persero ogni diritto civile, politico, economico e sociale, significa che persero anche le proprietà, che se ne avevano, la proprietà della casa, la proprietà della macchina, qualunque proprietà essi avessero, compresi i conti in banca. E un'operazione di pulizia etnica in guanti bianchi, portata a termine con un colpo di mouse davanti ai terminali del computer del ministro degli interni sloveno, è passata da anni inosservata nonostante gli effetti devastanti su migliaia di famiglie. L'ultima stima governativa ammette la cancellazione di ben 25.671 persone. La decisione della Corte, assunta dalla Grande Camera, cioè irrevocabile, è notevole perché applica la procedura pilota, impone quindi al governo di predisporre entro un anno uno schema di risarcimento per tutti i cancellati. Al di là delle implicazioni economiche del panico per i media di Lubiana, il dato politico è di rilevanza. Da martedì scorso la cancellazione è riconosciuta come un crimine contro i diritti umani. La sentenza seppellisce una volta per tutte il mito della success story slovena, di una secessione incruenta condotta nel pieno rispetto dei principi democratici. 20 anni fa, a Lubiana, fu fissato un paradigma che prefigura nella forma più estrema e crudele il processo di spoliazione dei diritti umani che minaccia la società europea, perché dai cancellati abbiamo imparato che Kafka è un autore neorealista che si limitava a fotografare la realtà con 80 anni d'anticipo. Un uomo a Pirano, in Slovenia, nel 1992, svolta l'angolo sulla via di casa, intravede dei poliziotti che gettano in strada le sue cose. Nato da genitori sloveni e cresciuto a Pirano, Milan Makuk si sente sloveno, ma per il nuovo stato indipendente è solo jugoslavo. A sua insaputa viene cancellato dai registri di residenza permanente della Repubblica, perde tutto, casa, lavoro, assistenza sanitaria. Dall'appartamento passa a una panchina del cortile, sopravviverà grazie al buon cuore di qualche ex concittadino. Quando è stato rintracciato portava i segni di 14 anni di cancellazione, un tumore gli mangiava il volto, nessun ospedale disponibile a curarlo, dovettero farlo quando sul tavolo della Corte di Strasburgo arrivò un fascicolo intitolato Milan Makuk e 10 altri, Slovenia. Non era stato facile convincerlo, ci racconta Roberto Pignone, perché temeva per la propria vita. Sai, attraversi la strada, arriva una macchina, nessuno si accorge di niente. Infine si decide affidandosi all'ombrello della giustizia europea. Il gruppo si chiamava Caraula, come le Caraule partigiane, piccole unità clandestine ancorate tra il Friuli e la Slovenia. Avevano il compito di garantire rifornimenti, assicurare i contatti tra le formazioni, raccogliere gli sbandati. La nostra Caraula, ci racconta Roberto, si occupava di difendere i migranti. L'intervento spaziava dai campi per Rom della capitale agli scenari della memoria storica. Con alcuni giovani di Lubiana girammo un documentario sui campi di concentramento fascisti in Friuli, compresi quelli di ultima generazione. Intervistavamo la gente all'uscita della messa di Pasqua a Gradisca di Sonso, mentre il CPT, oggi CIE, era in costruzione. Scusi, ci sono dei campi di concentramento nei paraggi? Per adesso no, era la risposta. Analizzando le tipologie di persone che finiscono nei lager attuali, che a volte, il caso di Gradisca, vengono realizzati in perfetta continuità con quelli di ieri, ci imbattemmo nei cancellati, perché a Gradisca di Sonso c'era prima appunto un campo di smistamento. In Slovenia, con un'operazione segreta, migliaia di cittadini erano stati trasformati in morti viventi. Per mesi, a volte per anni, hanno continuato a esercitare come per inerzia le loro attività abituali. Un bel giorno venivano fermati dalla polizia o entravano in un ufficio per rinnovare un passaporto, ci porti anche il passaporto, lo bucavano sotto i loro occhi con un'apposita forattrice di metallo e lo distruggevano praticamente. Le istituzioni europee fingevano di non vedere, compresi i nostri campioni Romano Prodi e Riccardo Illy. Non c'era un avvocato in Slovenia disposto a difendere i cancellati. Così, anche dopo il primo articolo di denuncia di Tommaso Di Francesco sul Manifesto del 2004, che di fatto aprì la campagna, decidemmo di cercarlo in Italia. La Caraula tenne fede al suo nome, assicurando un'efficace connessione tra il movimento sloveno e italiano. I cancellati manifestavano a Gradisca, i compagni di Monfalcone in Slovenia. Ognuno fece la sua parte, dai centri sociali ai sindacati fino alla pattuglia di parlamentari dell'allora Partito della Rifondazione Comunista a Bruxelles. L'idea del ricorso alla Corte Europea la dobbiamo ai Rom del Casilino. Aveva funzionato 5 anni prima, quando l'avvocato Luigi Lusi si era fatto carico, su mandato di Zurrutelli, di ripulire la capitale dagli zingari nell'anno del grande giubileo. Vedete, i nomi ritornano tutti poi alla fine. Per mesi a Lubiana un gruppo di giovani ha intervistato persone, raccolto dati, interpretato e tradotto leggi, certificati e circolari, lavoro militante senza un centesimo in cambio, al più una birra e un piatto di cibo offerto dai cancellati. Periodicamente ci fiondavamo a Roma a contattare gli avvocati Anton Giulio Lane e Andrea Saccucci, la strategia da seguire. Carla Casalini del Manifesto ci ospitava la domenica nella pagina europea del Manifesto. Ne uscì un'iniziativa robusta per la qualità e la documentazione e l'eccellente contributo tecnico dei legali. Non era un compito facile, le regole della Corte paiono fatte apposta per tenere alla larga chi ne ha veramente bisogno. Al fine di garantire l'ammissibilità del ricorso, ci selezionarono 11 casi tra centinaia di candidati e 6 di questi hanno centrato il bersaglio. Ma intelligentemente Roberto Pignone ci parla anche di quelli che non hanno ottenuto l'ammissibilità del ricorso. Tra questi, Velimir Dabetic, nato a Capodistria nel 69, era in Italia per lavoro e dopo la cancellazione non è potuto più rientrare nel suo paese. Da 10 anni si aggira per la riviera romagnola facendo il salto in banco, i suoi 2 collaboratori sono in regola, iscritti all'anagrafe canina. Ma Velimir non ha uno straccio di documento. Ogni tanto i poliziotti lo fermano, lo tengono dentro per un po', poi lo lasciano andare. Un paio di anni fa gli hanno notificato un decreto di espulsione verso la Romania e non si capisce quale sia il motivo di questa scelta di destinazione geografica. La Corte di Strasburgo aveva atteso 4 anni prima di dare ragione a Velimir del 2010. L'altro giorno ci ha ripensato, a 20 anni e 4 mesi esatti dal 26 febbraio del 92, ha deciso che Velimir Dabetic, apolide senza mezzi di sussistenza, deve rimanere cancellato a vita. Nemmeno Milan Makuč godrà i benefici della sentenza. Fu trovato morto qualche anno fa nella misera stanza che gli aveva concesso la municipalità di Pirano. Il suo corpo venne cremato a tempo di record senza informare i familiari. Accade anche in Italia, tra rom e clandestini, i nostri cancellati. Al funerale parteciparono una decina di persone. Con involontaria ironia il prete ricordava ai presenti che non abbiamo su questa terra residenza permanente. Si formò un piccolo corteo preceduto da un becchino in una forma con una bandiera nera. Dopo la cerimonia abbiamo scoperto che anche il becchino era cancellato. Reggeva il vessillo con la fierezza di un alfiere, scortando l'urna di Milan lungo i viali del magnifico cimitero di Pirano, un'isola di luce battuta dalla brezza marina dove le lapidi parlano tutte le lingue del mondo. E quindi, dopo questa terribile storia, perché anche la vittoria alla Corte Europea di Strasburgo non cancella il dolore e soprattutto la tortura mentale e fisica che hanno ricevuto le persone che si sono ritrovate di punto in bianco a non esistere più per l'anagrafe e quindi hanno perso tutto, però la Corte Europea ha dato loro ragione, la Slovenia verrà condannata ed è utile ricordare che il democratico e molto umano Prodi, che parla spesso quando si parla dei problemi dell'Italia, del fatto che lui è cattolico e che anche la sua moglie compagna è attiva nel volontariato, anche lui quando si trattò di ricevere i cancellati fece orecchie da mercante e non li ricevette per niente e nessuna diciamo, come si dice, nessuna figura storica della cosiddetta società democratica italiana ha mai detto una parola su questo fenomeno di segregazione razziale silenziosa. La Slovenia doveva diventare un buon partner economico e quindi le si poteva perdonare, non parlandone affatto, le sue pratiche segregazioniste. Andiamo avanti, continuiamo a parlare di un altro di un'altra limitazione gravissima dei diritti civili, dopodiché concluderemo e verso mezzogiorno inizierà il redazionale su Genova. 19 noi interrompiamo Bubamara per parlare di un altro argomento, sempre di segregazione razziale. Si tratta, perché è vero che non esistono le razze, ma esistono le pratiche razziste e vengono assolutamente mutuate da tutte le amministrazioni che si devono occupare, tranne qualche rarissima eccezione di stranieri, persone straniere non garantite socialmente. Quindi i primi abitanti hanno fatto il loro ingresso nel villaggio attrezzato del comune definito della Barbuta, 160 moduli abitativi di 24 e 32 metri quadri. Chi non vorrebbe andare ad abitarci? Servizio di videosorveglianza, nessuno spazio ricreativo di socialità, regole ferree per attraversare la barra di ingresso. Si tratta di un ghetto. Secondo lo European Roma Rights Center, la 21 luglio, che definisce la giornata dell'ingresso al campo una giornata di lutto. Intanto resta il nodo di Tordesillaci, perché i Rom non vogliono traslocare. Prendiamo tutto questo dal paese, dal nuovo paese sera.it. E ci rilasciamo anche a quanto detto venerdì scorso sull'appello che l'associazione 21 luglio faceva alle varie associazioni di non partecipare al bando per la gestione di questo campo, definito appunto un ghetto. Le persone che vi abiteranno saranno circa 350, oltre 10 milioni di euro per 160 moduli abitativi, servizio di videosorveglianza, regole ferre, che in una lettera vengono aspramente criticate, perché veniva chiesto al sindaco Lemanno di fare un passo indietro ed evitare una scelta antistorica, antieconomica e discriminatoria che pone la città di Roma al di fuori di una politica in linea con le strategie, le raccomandazioni e le norme europee e internazionali. Adesso l'associazione 21 luglio aggiunge che spetterà al comune di Roma a dimostrare ai cittadini romani che i 10 milioni di euro già spesi per la costruzione del villaggio, più quelli che si dovranno erogare a tempo indeterminato per adempiere ai compiti di gestione, sono considerarsi un investimento proporzionale da accogliere ai 650 Rom. D'altra parte, a nessuno potrebbe apparire una soluzione abitativa decente, una soluzione abitativa escludente e segregativa, concepita per esempio per soli cittadini asiatici o africani. Per questo la 21 luglio sottolinea che la giornata dell'inaugurazione del campo è una giornata di lutto per i diritti umani. Nonostante gli appelli e le diffide, i ricorsi al TAR, quello vinto dal comune di Ciampino, la sentenza del Consiglio di Stato che prima ha annullato l'emergenza e poi si è autosospeso, l'amministrazione Alemanno è andata avanti. E l'inaugurazione del campo della Barbuta è solo il primo passo di un cammino che sembra pieno di ostacoli. Il più preoccupante resta l'opposizione al trasferimento dei Rom di Tordesillaci, situazione che sta molto a cuore al vice sindaco Sveva Belviso, che in campagna elettorale aveva promesso di chiudere i campi del municipio XII, premessa che ribadiva in un'assemblea cittadina del 20 aprile. Ma a quanto pare i residenti di Tordesillaci non hanno intenzione di traslocare, hanno ribadito in una lettera. Insieme agli operatori sociali, gli educatori, gli insegnanti e alcuni cittadini o persone che hanno con loro contatti informali, una struttura che è stata messa in piedi dal Comune di Roma circa 15 anni fa spendendo diversi milioni di euro e che quindi, secondo i mittenti della lettera, basterebbe qualificare. E il campo dei Tordesillaci, che nasce appunto dopo lo sgombero del campo di Tordivalle, perché che era vicino a una centrale dell'ACEA, un campo veramente dove i bambini rischiavano spesso di essere investiti perché le macchine entravano e uscivano da quell'insediamento ACEA a una velocità che non teneva conto che ci vivevano delle persone, irregolari o irregolari per quanto fossero, erano sempre delle persone, e svariati incidenti sono avvenuti. Poi viene inaugurato il campo di Tordesillaci, poi ci sono tutte le polemiche per questo campo, ci sono anche delle proteste. Un onorevole del Consiglio Comunale Romano, il cui soprannome è Erpecora, si presenta lì davanti con le ruspe per distruggerlo. Ancora dentro il campo non abitava nessuno. La società civile, la città solidale, fa un corteo contro le ruspe del Pecora. Il giorno dopo il presidente, all'allora presidente dell'Opera Nomadi, il Pecora appunto, entrano a Tordesillas insieme per far fare pace a chi voleva distruggere con le ruspe il nuovo insediamento e poi ai residenti del campo. Questa così, insomma, per raccontare quello che è successo e quello che si fa sulla pelle delle persone umane e della loro esclusione sociale. Nessun problema ad avere a che fare con la destra se si tratta di far andare avanti i propri progetti. Allora così sembrava essere l'atteggiamento di chi entrò appunto col Pecora dentro al campo di Tordesillas una domenica successiva a un grossissimo corteo che si svolse per le vie di Spinaceto, che appunto si opponeva al razzismo di chi ancora una volta, anche se segregante, che si opponeva al fatto che i Rom esistessero proprio in quel pezzo di città. Cosa ci dice invece Sandro Medici, presidente del decimo municipio? Chiede ad Alemanno di rispettare i patti presi con l'allora commissario all'emergenza nomadi Pecoraro. Quindi, nonostante il piano nomadi sia stato giudicato anticostituzionale dalla Consulta, nonostante quindi tutto quello che riguardava tutta la sua attuazione fosse non soltanto anticostituzionale ma addirittura illegale, ci fanno la testa tanta sulla legalità, ci fanno la testa tanta sul rispetto delle regole sia da destra che da sinistra, ma quando c'è un organismo alto adibito a dire che ci sono delle regole che vanno rispettate e il piano per nomadi non ne rispettava nessuna, prima tra tutti quella di fare appalti, cioè di dare, diciamo, commissioni, di dare incarichi senza gare d'appalto, visto che c'era l'emergenza nomadi e si sa che è un'emergenza, sono sul territorio geograficamente, stanno appunto sul territorio che adesso chiamiamo Italia dal 1400, quindi no, dal 1200, quindi prima che ancora l'Italia esistesse, perché l'Italia esiste da 150 anni, ma diciamo che ai tempi di Dante i Rom stavano in Toscana, mettiamola così, e Dante non era cittadino italiano comunque, e non, secondo me non ci sarebbe neanche voluto diventare, ma queste sono opinioni personali. Che cosa ci dice Sandro Medici? Si riallaccia appunto ai patti che escludevano il trasferimento dei Rom di Tordesillas presso la Barbuta. Non vorrei che Alemanno, venendo meno agli accordi, voglia agire con la solita brutalità e prepotenza e scaricare sulla Barbuta le tensioni della sua maggioranza, che da anni invoca lo svoltellamento di Tordesillas, con la conseguenza di scatenare conflitti all'interno del nuovo campo tra le diverse comunità, che finirebbero per peggiorare le condizioni delle famiglie Rom e Sinti nella nostra città, oltre che suscitare allarme tra i cittadini. Quindi tutto tranne che una soluzione abitativa che si chiama casa. Evidentemente è troppo difficile da comprendere, ci si può scandalizzare per tutto ma non per i campi di segregazione sociale. Tra l'altro sapete tutti che lo scandalo e tutte le informazioni che sono uscite da WikiLeaks e che appunto che hanno inondato le pagine dei giornali, esiste insomma un settore di fuga di notizie o di raccolta di notizie, diciamo, che anche riguardo tutto quello che riguarda la gestione dei campi per nomadi. E quindi la lettera del 21 luglio che invitava alla le associazioni a non partecipare al bando per la sua gestione, la voce che insomma è stata fatta correre da gente ben informata è che sarebbe molto facile aderire a questo appello, ci si farebbe pure un'ottima figura. Il sì è assolutamente sbagliato, perché chi parla non fa parte di nessuna di queste associazioni, perché il campo della Barbuta sarà a quanto pare gestito totalmente dalla Croce Rossa. D'altro canto, se c'è la videosorveglianza, se ci sono regole ferree all'ingresso, se non ci sono spazi di socialità, dopo la grossa esperienza avuta con i CIE, gestire un campo per nomadi sembrerà una passeggiata. Questi manco li devi espellere, quindi non ci fai i soldi soltanto per 60 giorni o per più mesi, ci fai i soldi sempre e manterrai sempre l'emergenza. Quindi un nuovo luogo di segregazione sociale e di razzismo è stato inaugurato in quel del decimo municipio e nella città di Roma alle 11:29, con tutte queste brutte notizie. Roma Roma di oggi finisce qui. Un poco di musica, ringraziamo chiaramente chi ci ha telefonato, chi ci ha ascoltato, chi ci ha suggerito argomentazioni e articoli, ringraziamo quindi la redazione informale ma molto informata di questo spazio radiofonico che si chiama Roma a Roma dagli 87.9, quindi un saluto, un poco di musica e poi le conclusioni. Noi continuiamo ad avere una relazione, diciamo un buon feedback con ascoltatori e ascoltatrici che ci chiedono di fare una comunicazione di servizio. La Roma L'Aquila è bloccata, non pensate di poter prenderla per andare da qualsiasi parte, a meno che non vogliate vivere l'esperienza di un incolonnamento che non si sa quando finirà. E quindi dopo questa notizia di servizio noi speriamo di farvi una buona compagnia e sarà sicuramente così. La segregazione razziale finirà quando decideremo di dire che è ora di basta e quando decideremo appunto di non fare più finta che le cose non ci riguardino, quando uccideremo il razzista che è dentro di noi o la razzista che è dentro di noi, la guarderemo in faccia e decideremo di farla finita con quella parte di noi stessi e attueremo politicamente questa fine delle pratiche razziali, smettendo di dare credibilità a chi ci racconta che ci sono persone che devono assolutamente essere rieducate. La rieducazione al lavoro, alla socialità, dicevano di farla i nazisti nei campi di concentramento, ma sapevano pure loro di non essere assolutamente sinceri. Smettiamo di farla pure, smettiamo di prenderci in giro pure noi. Non, la soluzione alla segregazione razziale non è una soluzione semplice, non sono le frasi ad effetto come abbattere tutti i campi per nomadi che risolleranno le sorti di nessuno, ma magari abbattere il razzismo anagrafico, quindi concedere documenti a tutte e a tutti, quindi smettere di fare vivere le persone in stato di minorità e di ricatto perenne e in perenne ansia perché la propria abitazione può essere abbattuta da un minuto all'altro da gente poi che magari si riscopre essere come Lusi, che voglio dire, parlava tanto di rispetto e di legalità, ma a quanto pare non è riuscita a praticarla quando si trattava di amministrare i soldi del partito del quale era tesoriere, sempre col beneficio del dubbio, perché per queste persone esiste sempre il garantismo e la non messa alla gogna fino appunto all'ultimo grado di giudizio. Non esiste questa pratica quando si parla di poveri disgraziati o povere disgraziate senza documenti o con documenti ma con poca collocazione nelle classi sociali anzi con buone posizioni nelle classi sociali subalterne. Sono le 11:33, questa voce smette di parlare, un poco di musica e tra poco il redazionale che si occuperà dei fatti ancora una volta di quello che si organizza nella nostra città riguardo la campagna 10% contro il fatto che 10 persone paghino praticamente un prezzo al di là della loro partecipazione o meno ai fatti di Genova. Bisognerebbe poi sempre capire di che cosa si sta parlando. È assurdo che ci siano queste condanne così pesanti. Il carcere non ha mai rieducato nessuno, tant'è vero che in carcere le persone che sono garantite socialmente ci vanno pochissimo o a volte non ci vanno affatto. Siamo, diciamo, quasi alla frutta, ma continuiamo a vedere queste condanne inequivocabili di quello che viene chiamata violenza, intendendo per violenza appunto la violenza fisica, a rompere una vetrina, a rompere un bancomat. Non c'è lo stesso scandalo, non c'è la stessa indignazione per esempio per quanto riguarda la violenza contro le donne, per quanto riguarda le pratiche femminicidie che vedono appunto una donna morire un giorno sì, un giorno no, per mano di qualcuno che conosce bene. Come si dice, l'assassino ha spesso, quasi sempre, le chiavi di casa. Non c'è la stessa indignazione, non c'è la stessa condanna di questa violenza, e sarebbe il caso che incominciassimo ad avere un peso ed una misura. 87.9 Radio Onda Rossa, 0649 1750 è il numero di telefono. Questo spazio finisce qui, a tra pochissimo con un altro redazionale.